24. La storia. Per terra c'erano dei soldati. Uno non aveva più le gambe e gridava: «Sparatemi, avanti, sparatemi!» E noi eravamo lì, impietriti a guardarlo. Con tutta la roba che ti dovevi trascinare dietro, non era proprio possibile portare anche un ferito. Eravamo costretti a lasciarli lì. Non può durare ancora molto. Saremo annientati dall'inedia e dalle sofferenze. Spero solo che questo strazio finisca in fretta. È forse la più grande sconfitta subita dall'esercito tedesco, un momento di svolta della Seconda Guerra Mondiale. È la battaglia di Stalingrado, una delle tappe più lunghe e spietate del Secondo Conflitto Mondiale. Con l'obiettivo di controllare la regione strategica tra il Don e il Volga e quindi l'importante centro politico, economico e simbolico di Stalingrado, inizia l'avanzata delle truppe tedesche verso est. Dall'estate del 42 fino all'inverno del 43 si fronteggiano da un lato gli uomini della Wehrmacht e i suoi alleati, dall'altro i soldati dell'Armata Rossa, in una estenuante battaglia in cui l'armata tedesca, guidata dal comandante von Paulus, viene annientata. Ma a fare strage di uomini non sono solo le armi, ma la fame, la sete, le malattie e soprattutto il freddo, il grande nemico che lascia sul campo migliaia di soldati. Oggi a Mix24 vi proponiamo il racconto di quella battaglia e delle sue fasi cruciali, ricostruite attraverso le voci dei reduci, i soldati della Sesta Armata tedesca, che quella battaglia l'hanno combattuta e della quale non hanno mai dimenticato le difficoltà, le sofferenze e la disperazione. Gennaio 1943. La battaglia di Stalingrado dura ormai da 53 giorni. 240.000 tedeschi, allo stremo delle forze, sono intrappolati nella città sul Volga. Ogni speranza di salvezza è ormai svanita. 8 gennaio 1943. L'Armata Rossa offre ai tedeschi la possibilità di una resa onorevole. Da Berlino Hitler respinge ogni negoziato. Gli emissari sovietici vengono cacciati via. 10 gennaio, 48 ore dopo, la Sesta Armata attende il colpo di grazia. 10 gennaio 1943, 7 armate sovietiche assaltano il fronte della sacca di Stalingrado. 250.000 soldati russi travolgono le postazioni tedesche. Gli assediati non riescono ad opporre alcuna resistenza. Così i testimoni Herbert Wendler della 24esima corazzata tedesca e Heinz Kreutz della 29esima fanteria tedesca. Alla fine i panzer russi hanno sfondato. Non so quanti fossero con precisione, ma hanno letteralmente travolto la nostra postazione e poi sono tornati indietro per passare sopra i soldati che erano nelle trincee. I carri armati hanno cominciato a venirci addosso. Schiacciavano quelli che non riuscivano a scappare. Per terra c'erano dei soldati. Uno non aveva più le gambe e gridava: «Sparatemi, avanti, sparatemi!» E noi eravamo lì, impietriti a guardarlo. Con tutta la roba che ti dovevi trascinare dietro, non era proprio possibile portare anche un ferito. Eravamo costretti a lasciarli lì. L'Armata Rossa avanza da ovest attraverso la steppa gelata. I tedeschi scappati a migliaia verso il Volga si nascondono tra le macerie della città distrutta. In una lettera un soldato racconta tutta la sua angoscia per il futuro. Quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni è indescrivibile, ma il peggio deve ancora venire. Una miseria indicibile, morte, distruzione. Le famiglie della maggior parte dei caduti non sono state nemmeno informate. Quindi, se non ricevete nessuna notizia, molto probabilmente significa che sono stato ferito, fatto prigioniero, o che sono morto per la fame o per il freddo. Mi dispiace se questa è diventata una lettera d'addio. Non so quanti giorni ci restino ancora. Nel tentativo di porre fine a questo orrore, si decide di inviare un ufficiale in Germania. La persona scelta è un capitano pluridecorato, Winrich Baer. Mi dissero: Bear, abbiamo deciso di mandarla da Hitler. Dobbiamo fare in modo che a Berlino aprano gli occhi e si rendano conto di quello che sta succedendo qui. Devono darci carta bianca per negoziare. Paulus voleva la resa, la capitolazione. Secondo lui non aveva più nessun senso lasciare gli uomini a morire di fame o a congelarsi. La missione di Bear è l'ultimo disperato tentativo del comando della Sesta Armata per salvare vite umane. 14 gennaio 1943. Bear arriva alla Tana del Lupo, il quartier generale del Führer, ma sa già che convincerlo sarà molto difficile. Alla fine la porta si aprì ed entrò Hitler, che mi disse: «Heil, capitano!» Io scattai sull'attenti e risposi: «Heil, mio Führer!» Hitler mi disse: «Venga con me!» Attraverso una porta entrammo nella famosa sala delle riunioni. Qui raccolsi tutto il mio coraggio e dissi: «Mio Führer, ho l'ordine dal mio comandante di farle un rapporto della situazione ed avanzare una richiesta. Chiedo il permesso di eseguire questo ordine». Era presente anche Keitel, il quale annuì. E anche Hitler disse: «Sì, signore». Devo dire che mi lasciò parlare per 3 ore buone, senza mai interrompermi, né sollevare obiezioni a quanto io gli dicevo. Queste le parole del capitano tedesco Bear. Ma la sua decisione Hitler l'ha già presa da tempo. Stalingrado deve essere conquistata a qualunque costo. È una questione di prestigio, e poi si tratta anche della città che porta il nome del grande nemico di Hitler, Stalin. Ancora Winrich Bear, ufficiale dell'alto comando della Sesta Armata tedesca. Ovviamente ero arrabbiato, molto arrabbiato. Comunque sia, quella per me fu la prova che era vero quanto la gente diceva, ossia che Hitler aveva perso ogni contatto con la realtà. Hitler, insomma, ha abbandonato i suoi soldati condannandoli alla fame e alla morte. A Stalingrado per i tedeschi la razione quotidiana è di 50 grammi di pane. La temperatura è a meno 50 gradi. Il freddo si rivela l'avversario più pericoloso, che uccide più tedeschi degli attacchi sovietici. E i soldati non resistono più. Mix 24. La storia. Non può durare ancora molto. Saremo annientati dall'inedia e dalle sofferenze. I pidocchi riescono ancora a trovare qualcosa da mangiare su corpi che ormai mostrano solo le costole. Spero solo che questo strazio finisca in fretta. Molti soldati non reggono più. La gente impazziva. Si metteva a urlare, a picchiarsi da sola. Aveva la bava alla bocca. Si rivoltava nella neve. Veniva colta da raptus di follia. La pazzia era sotto gli occhi di tutti. Era Gerhard Engler, ufficiale del 3° battaglione di fanteria tedesca. Bentornati a Mix 24. La battaglia di Stalingrado sta mettendo a durissima prova i soldati tedeschi. Il freddo e la fame sono i nemici principali dei soldati che cercano la forza di resistere. Ma il destino più crudele tocca ai feriti. Negli scantinati della città di Stalingrado ci sono 40.000 tedeschi feriti, ormai abbandonati a se stessi. Le cantine erano piene di feriti, anche feriti gravi, febbricitanti, in fin di vita. C'era un tanfo insopportabile, penetrante. Sembrava, come posso dire, sembrava un obitorio pieno di cadaveri viventi. Nei locali di una fabbrica avevano messo su una specie di ospedale da campo, e lì ho visto la sofferenza vera e propria. È impossibile descrivere tutto nei dettagli. Se dovessi raccontare tutto quello che ho visto, no, preferisco di no, è troppo sconvolgente. A Stalingrado gli episodi di cannibalismo saranno frequenti, fra i tedeschi come fra i russi, senza eccezione. Anche fra i civili russi, rimasti intrappolati in città. In un campo c'erano diverse migliaia di prigionieri russi feriti e affamati. Fra questi, tanti impazzivano,

diciamo, è un conflitto che potremmo definire a bassa intensità, è un conflitto fra l'altro combattuto per interposta persona, nel senso che le grandi potenze sono indirettamente interessate, però come tutti i conflitti regionali corre il pericolo di sfuggire di mano, e in questo senso è un pericolo enorme, perché l'Ucraina è la cerniera delle due Europe, perché tutto questo avviene a due passi da casa nostra e perché questo coinvolge direttamente un paese complesso e difficile da leggere come la Russia. Ecco, per i russi, appunto, meglio per la TV russa, i nazisti sono di nuovo alle porte. Solo propaganda? Non c'è dubbio che la macchina di propaganda del Cremlino, attraverso la televisione che controlla in modo totale, stia diffondendo il pensiero unico, la narrativa unica di un paese minacciato dai nemici occidentali, di un paese accerchiato. Ma tutto questo non può far dimenticare che esiste una percezione dell'opinione pubblica russa che va oltre la propaganda e che in effetti vede nelle sanzioni occidentali, vede nell'isolamento economico in cui la Russia versa oggi un accerchiamento, e quindi avverte tutto questo come un senso di accerchiamento, anche perché il tema in questione è un tema molto complesso sul quale non si può tranciare in modo netto. L'Ucraina è qualcosa di molto molto molto sensibile, non solo per la storia russa, ma anche per la cultura, per l'identità, per l'intera natura del popolo russo e della società russa. Ecco, però realmente è accerchiata la Russia? Allora, in questo momento io credo che la Russia viva un sperimenti un accerchiamento da parte dell'Occidente, il che non significa che questo accerchiamento non sia giustificato, non abbia delle motivazioni. Il problema è un altro, il problema è se l'accerchiamento, che consiste nelle sanzioni, nell'isolamento economico, sia la misura giusta per convincere il governo russo, il presidente russo Vladimir Putin a cambiare politica in Ucraina. Io credo che questo non lo sia, perché le sanzioni non fanno altro che inasprire il senso di accerchiamento dei russi, le sanzioni non fanno altro che ricompattare il popolo russo, che vive le sanzioni come un'ingiustizia. Ma oggi il nemico numero uno della Russia chi è? Questo dovremmo chiederlo ai russi. Nella percezione russa probabilmente oggi il nemico numero uno è nuovamente l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti. Nei confronti dell'Europa la Russia vive l'impressione di un tradimento, la Russia si sente come tradita dall'Europa, così come ci si sente traditi da un amante. Intorno a un tema, ripeto, sul quale bisogna essere molto molto delicati, molto attenti, nel senso che l'Ucraina non è semplicemente un paese confinante con la Russia. L'Ucraina è l'origine della Russia. È vero che non tutti gli ucraini sono russi, ma tutti i russi sono ucraini. Cioè il rapporto dell'Ucraina con la Russia è un rapporto che affonda nella storia, che è viscerale, che è culturale, che è storico, e che quindi non possiamo pensare che possa essere tranciato di netto. Le province orientali dell'Ucraina sono popolate da russi, e che sono gli stessi russi che abitano le regioni di Stavropol, che sono confinanti, e quindi non si può pensare che l'Ucraina possa semplicemente, per esempio, entrare nella NATO o troncare ogni rapporto con la Russia. Quindi lì il punto è che occorre tener presente quali sono le percezioni e le sensibilità e quali sono le esigenze legittime, perché non è che... Ecco, appunto, ma sarebbe la guerra di chi contro chi? Perché a volte non si riesce a capire, no? Allora, nella percezione dei russi è un conflitto, è una guerra civile interno al mondo russo. Nella nostra accezione è una guerra tra chi vuole l'Ucraina indipendente, filo occidentale e integrata nel sistema economico e di sicurezza occidentale, e chi invece vuole l'Ucraina legata all'area russa. Allora, il problema è che questi due scenari in realtà contengono un profondo elemento di errore ambedue, perché per esempio non sarà mai possibile integrare l'Ucraina all'Europa, all'Unione Europea, prescindendo dai rapporti fondamentali. Tra l'altro non credo che sarebbe neppure nel nostro interesse, o neppure che molti paesi dell'Unione Europea lo vogliano. senza tener conto di quali sono tutti i legami economici con la Russia. Ricordiamoci che tutta la questione ucraina e tutta la ribellione di Maidan nasce da un accordo commerciale che fu gestito maldestramente dall'Unione Europea, che ne affidò la gestione sostanzialmente a dei funzionari che non capirono qual era l'alto potenziale politico esplosivo di quel rapporto, in cui si pensò di poter negoziare un accordo commerciale solo con il governo ucraino, senza coinvolgere invece anche la Russia. Questo è uno degli errori, il peccato originale, iniziali, diciamo, della vicenda ucraina. Noi abbiamo raccontato la storia di Stalingrado. I russi sembravano sconfitti, ma poi invece vincono. Bisogna sempre temere l'orso russo? Non bisogna mai dare per domato l'orso russo. Se una lezione può venire da Stalingrado, ma come da Stalingrado, dall'assedio di Leningrado, dalle campagne napoleoniche, è che i russi di fronte a una avversità, in questo caso le sanzioni, tendono sempre a ricompattarsi, hanno una capacità di durata, una capacità di resistenza illimitata. E quando viene messa in gioco, a torto o a ragione, in modo vero o presunto, quella che loro considerano la loro identità, quella che loro considerano la loro ragion d'essere, e allora i russi non c'è Stalingrado che tenga, nel senso che sono capaci di resistere senza limiti. Grazie Paolo Valentino. Grazie a voi. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.